Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 5 Stelle, il caos della giunta di Roma investe il leader in pectore Di Maio che si difende. Il sistema dei partiti ha montato il caso, lo smonteremo. Avrebbe saputo dell'indagine sull'assessora Muraro fin dall'inizio di luglio. Timbravano il cartellino e poi andavano a lavorare come giardinieri o facevano shopping e visite mediche. 29 indagati nell'ex provincia di Siracusa. Nuovo sbarco in Calabria, 700 a Crotone e 8 vittime. Dovrebbe partire a breve la costruzione di un muro a Calais, fa sapere il ministro dell'interno britannico. Dopo il sisma riapre la tratta della Salaria, chiusa stanotte per la caduta Massi, e questa notte nuova scossa di magnitudo 3.4, 6.200 le repliche dal 24 di agosto. Iniziano le Paralimpiadi a Rio de Janeiro, a effetto giorno vi racconteremo ogni giorno la storia di uno dei nostri atleti, inizieremo dalla nostra portabandiera. Alla Mostra del Cinema di Venezia, una delle giornate più attese, il film su Jackie Kennedy con la Portman e Voyage of Time di Terrence Malick. Gli fu tolta la bimba per un errore giudiziario. Ora due genitori del veneziano devono pagare il conto dei mesi che la figlia ha trascorso in comunità. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, potete scriverci a effettogiorno@radio24.it e seguire il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, nel quale vi diamo quotidianamente delle anticipazioni su quello che tratteremo nel programma. In apertura dunque ancora il caso politico di queste ore, quello della giunta 5 Stelle di Roma, il punto di oggi con Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, buongiorno Simone. Allora, la verità e l'umiltà ci renderà più forti di prima. Il dialogo con le persone oneste porta avanti questo progetto. Non ci fermano, lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. La riunione fiume del Movimento 5 Stelle è andata avanti tutta la notte ed è proprio Di Maio a scusarsi per non aver capito l'email sull'indagine a carico dell'assessora all'ambiente del Comune di Roma, Paola Muraro. Nel frattempo sta per arrivare qui a Roma Beppe Grillo, che potrebbe incontrare anche la sindaca Virginia Raggi, già al lavoro in Campidoglio. Sull'impasse del Movimento 5 Stelle a Roma interviene il ministro degli interni Angelino Alfano. Innanzitutto il Movimento 5 Stelle non ha superato il crash test e non aveva l'airbag e quindi si è andata a schiantare. Ma dal movimento c'è voglia di ripartenza. Alessandro Di Battista è convinto che questo accanimento su Roma sia legato al referendum e anche al tema delle Olimpiadi. Ovviamente, dice Di Battista, dobbiamo correggere alcuni errori e gli errori sarebbero la testa di Muraro e del neo assessore al bilancio De Dominicis, più quella del capo di gabinetto Raffaele Marra, mentre per Salvatore Romeo si andrebbe verso un taglio dello stipendio. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Abbiamo deciso oggi, dopo questi giorni che sono stati piuttosto convulsi, di cercare di ricostruire la vicenda. Sentiamo. È pulita o no? Con questo sms Di Maio chiede informazioni sull'assessore Muraro a Paola Taverna, membra del direttorio romano che vigila sulla sindaca Raggi. E la risposta che gli torna indietro è un secco no. È il 4 agosto e da quel giorno Luigi Di Maio è a conoscenza dell'iscrizione nel registro degli indagati di Paola Muraro. Il giorno dopo, dunque il 5 agosto, Di Maio riceve una mail da Taverna in cui viene informato sui dettagli dell'inchiesta. A questo punto Di Maio tace. Per oltre un mese sulle questioni romane parla solo di rifiuti e di Olimpiadi. Quando gli chiederanno di questa mail dettagliata, ormai nota come mail fantasma, dirà prima di non averla mai ricevuta e poi di non averla capita. Taverna, nell'avvisare Di Maio dell'indagine in corso dal 18 luglio su Muraro, gli chiede anche di condividere l'informazione con il resto dei componenti del direttorio nazionale, ma durante l'audizione della commissione Comafie il direttorio giura di ignorare che la Muraro fosse indagata, né tantomeno, dichiarano, Sibilia Fico e Ruocco ne era a conoscenza il mini direttorio. È il 4 settembre, la notizia ormai di pubblico dominio. Le bugie della Muraro sulle indagini a suo carico hanno retto 48 giorni. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro che emerge appunto soprattutto da alcune indiscrezioni di stampa. Anche il Presidente del Consiglio ha commentato ieri le vicende di Roma, ha toccato anche il tema del referendum che resta al centro anche per le repliche che stanno arrivando dai 5 Stelle. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, proprio così, ed è stata l'occasione ieri per il Premier per tornare sulla data della consultazione. Si terrà tra il 15 novembre e il 5 dicembre, ha detto Renzi, che ha invitato poi a parlare dei contenuti della riforma. Non tocca pesi e contrappesi della democrazia, ha rivendicato Renzi. Certo, ha ammesso, il testo originale del governo era scritto meglio e in 6 passaggi il Parlamento l'ha cambiato, ma è il gioco della democrazia. Quanto a possibili dimissioni in caso di vittoria del no, il Premier conferma di non aver cambiato idea, quindi l'attacco a D'Alema vuole rifare la bicamerale con Berlusconi. Sul fronte del no, lo abbiamo ascoltato, intervento dei 5 Stelle, questo accanimento senza precedenti sui problemi che abbiamo a Roma, spiegano dal Movimento, è legato al referendum e anche al tema delle Olimpiadi. Non c'è limite all'indecenza di Renzi, dice quindi Brunetta, gioca con la data del referendum, lo colloca prima o dopo la sua Leopolda, ma tanto, spiega l'esponente di Forza Italia, vinceranno i no. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta, sono ore queste nelle quali ci sono incontri continui tra governo e sindacati. Cambiamo argomento, passiamo alla politica economica, mentre ieri lo stesso Renzi ha prospettato qualche dettaglio in più su quella che potrebbe essere la manovra. Le pensioni saranno uno dei punti di forza della prossima legge di bilancio. Lo ha annunciato ieri sera il Presidente del Consiglio Matteo Renzi a Porta a Porta. Il governo ha spiegato su di un aiuto per le pensioni minime sotto forma di quattordicesima, come quella che percepisce a partire dal governo Prodi chi prende meno di 750 euro al mese. Il Presidente del Consiglio ha inoltre confermato la volontà di favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori. Una sorta di scivolo, ha spiegato. Chi ha 3 anni dalla pensione, rinunciando a un pochino, potrà andare in pensione prima. Il cerchio sulle pensioni dovrebbe chiudere la prossima settimana, quando ci sarà l'incontro tra il ministro del lavoro Giuliano Poletti e i sindacati. Sul fronte lavoro, intanto, saranno estesi gli ammortizzatori sociali per i circa 40.000 lavoratori delle 9 aree di crisi complesse, da Piombino a Termini Imerese, dopo l'intesa raggiunta tra Poletti, sindacati e regioni. Un pacchetto che vale 370 milioni di euro e prevede una proroga di 12 mesi per la cassa integrazione straordinaria, un assegno da 500 euro al mese per un anno per chi rimane senza ammortizzatori e 4 mesi di NASPI, il sussidio di disoccupazione, invece dei 3 attuali per i lavoratori stagionali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo di immigrazione ora. Ah no, scusate, abbiamo un altro servizio? No, abbiamo pronto il servizio sull'immigrazione, via. Un muro alto 4 metri e lungo 1 chilometro da costruire a Calais per impedire ai migranti di salire sui camion diretti in Inghilterra. Ad annunciarlo il ministro dell'interno britannico a Dover. La barriera anti-immigrazione verrà costruita entro l'anno su una delle strade di accesso al porto. Dovrebbe costare 2,7 milioni di euro e sarà pagata dal governo di Londra in base a un accordo raggiunto nel marzo scorso con la Francia. Nel giorno in cui viene annunciato l'ennesimo muro in Europa, Angela Merkel, la cancelliera tedesca, parla di situazione migliorata per quanto riguarda i profughi in Europa quest'anno rispetto all'anno scorso e definisce l'accordo Europa-Turchia sui profughi un modello per altri da seguire. E cita esplicitamente Egitto, Tunisia, Niger e Mali. Tutto questo mentre la Commissione europea sta lavorando a un piano da 50 miliardi di euro che dovrebbe coinvolgere appunto alcuni paesi del Nord Africa e che scoraggi i migranti a partire dai loro paesi favorendo lo sviluppo nel continente africano. Intanto oggi nuovi sbarchi. Una nave della Marina Militare è arrivata stamattina a Crotone con 705 migranti a bordo e purtroppo anche 8 corpi recuperati in mare. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un nuovo caso di assenteismo, in un ente pubblico e la solita vicenda dei cartellini timbrati per poi andare a fare altro. Si dedicavano allo shopping oppure facevano quelle visite mediche a lungo rimandate rigorosamente in strutture pubbliche o lavoretti per privati come il giardinaggio oppure restavano a casa a seconda delle necessità, tutto in orario di lavoro e loro tutti dipendenti della ex provincia regionale, oggi libero consorzio comunale di Siracusa. Assenteisti è il termine esatto, o anche furbetti del cartellino. Le indagini cominciate nel gennaio 2015 hanno permesso di contestare il reato di truffa aggravata nei confronti di 29 persone. Antonino Spampinato, colonnello delle Fiamme Gialle. Tecnicismo fraudolento era la tenuta di un registro. Il giorno prima maturavano l'assenza, il giorno dopo quello quello che non veniva beggiato veniva ricompensato con la scritturazione di questo registro, andandosi a segnare ore che di fatto non erano state prestate. L'indagine, compiuta attraverso pedinamenti e videoregistrazioni, ha messo in luce la quasi totale assenza di controlli interni negli uffici. Questa non è la prima operazione che facciamo, ne abbiamo già fatte altre. Il dipendente pubblico non vuole assimilare questa attività che la Guardia di Finanza fa sul territorio e si sente sempre immune o esentato dall'obbligo di rispettare la legge. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al fronte del terremoto. La terra continua a tremare nei comuni dell'Italia centrale colpiti dal terremoto del 24 agosto. Tra ieri sera e stamattina altre due forti scosse sono state avvertite nella zona di Arquata del Tronto. Sempre nel versante marchigiano dovrebbe essere parzialmente riaperto in giornata il tratto della Salaria all'altezza di Acquasanta Terme, interrotto ieri da una frana che sta rendendo difficile l'arrivo degli aiuti. A Rieti invece stamattina il commissario alla ricostruzione Errani e il capo della protezione civile Curcio hanno incontrato il governatore della Lombardia Maroni, che ha messo a disposizione 16 moduli abitativi per circa 650 persone, già utilizzati per gli operai che hanno allestito l'Expo. L'ipotesi è quella di utilizzarli come scuole o aree collettive, non come case, perché non sono adatti alle esigenze abitative degli sfollati, ha spiegato al termine Curcio. No abitazioni, sia perché la scelta è stata diversa, ma sia perché questa conformazione non consente l'utilizzo. Queste erano, come dire, stanze singole fatte per operai che ovviamente non trovano la conformazione allo stato attuale delle esigenze. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi torneremo più avanti a parlare di terremoto, lo faremo col sindaco di Norcia. Norcia, lo ricordiamo, è uno dei comuni più colpiti da questo sisma. Non ci sono state vittime per fortuna, ma ci faremo dare dal sindaco un quadro della situazione. Ma c'è un altro punto sul quale abbiamo puntato i nostri riflettori in queste ore, ed è questo. Quante volte vi sarà capitato in queste ore, in questi giorni, di sentire tanto dalla TV quanto in radio, di girare per strada e vedere qualcuno che vi proponeva una amatriciana solidale per poter dare dei fondi appunto ad Amatrice, per la ricostruzione di Amatrice o per l'aiuto immediato alle popolazioni. Abbiamo deciso di scavare un po' in questa cosa, perché non è detto che tutti i soldi vadano nei posti giusti e dove effettivamente servono. L'Italia è un paese di grande solidarietà, ma anche di gente che spesso se ne approfitta. Com'è possibile accertarsi che le donazioni fatte nei giorni scorsi per l'emergenza terremoto arrivino a chi ne ha bisogno? In realtà non è così semplice. Persino la Croce Rossa Italiana mette in guardia sull'impossibilità di controllare la destinazione di alcuni eventi di beneficenza. Massimo Peci, responsabile del fundraising per Croce Rossa, spiega che non è possibile controllare nemmeno le diffusissime amatriciane solidali. Non l'abbiamo e non la stiamo spingendo come una nostra iniziativa, perché oggi non posso dire se un ristorante che fa una cosa poi effettivamente fa esattamente quello che magari si chiede nella campagna. Io credo nella buona fede, ripeto, di tutti. In questo caso ci sarebbero stati altri modi per farlo, però come le ho detto un po' lo slancio all'italiana è diventato una cosa, un afflato culinario diffuso, ma purtroppo non rendicontabile. Questione di fiducia, dunque, ma proprio ieri la notizia di un account Twitter che pubblicizzava una matriciana solidale indicando un IBAN privato e assolutamente diverso da quello della Croce Rossa per le donazioni. L'associazione ha deciso di sporgere denuncia. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo è il quadro dunque della matriciana solidale, dunque fate estrema attenzione anche a queste iniziative senza rinunciare alla solidarietà. Andiamo a Venezia adesso, alla Mostra del Cinema, dove c'è la nostra inviata Marta Cagnola, per quella che oggi è una grande giornata, Marta, no? Eh sì Simone, perché ci sono due film attesissimi in concorso oggi, applausi, questa mattina per la prima proiezione stampa di Jackie di Pablo Larraín. Natalie Portman è Jackie Kennedy nei giorni che seguono l'assassinio di Dallas. Portman bravissima, sui social qualcuno già scrive la parola magica Oscar, forse più fragile, più sospirosa di Jacqueline Kennedy, certo, però Larraín è riuscito a giocare con la macchina hollywoodiana. Di tutt'altro segno invece l'altro film attesissimo, Voyage of Time, Life Journey. Qui il solenne, avvolgente, imponente lavoro di Terrence Malick, che in 90 minuti racconta la storia del mondo e la meraviglia della natura. Voce narrante, Kate Blanchett, sarebbe bello che in Italia si potesse non doppiare. E poi andiamo sempre, come sempre, a vedere gli italiani. È il giorno di La ragazza del mondo di Marco Danieli nelle giornate degli autori. storia d'amore che però tocca gli ambienti dei testimoni di Geova, quindi potrebbe creare qualche polemica. Poi c'è Federico Munzi che due anni dopo Anime Nere, ricordiamo 9 Davide Donatello, torna con un documentario, Assalto al cielo, viaggio d'archivio per raccontare i movimenti politici tra la fine degli anni 60 e i 70. Ce l'ha raccontato proprio lo stesso Francesco Munzi. Paradossalmente il 68, gli anni del 68 che io nella mia memoria finta, che non ero nato appunto, però nella memoria mitica che ognuno conserva, come ricordavo, come anni di libertà assoluta, di sperimentazione, invece nel 68 si sente ancora una certa briglia ideologica, si sente che uno ha letto Il Capitale di Marx o testi proprio sacri, anche un po' polverosi, mentre quello spirito più libertario avviene un po' più dopo, anche il gergo cambia, il linguaggio si scioglie, però nello stesso tempo arriva anche la violenza degli aspetti più drammatici, quindi è come se fosse una rivoluzione che tenta di arrivare, che non arriva mai e che poi alla fine implode un po'. Ti segnalo infine un esordio a Venezia, questo pomeriggio parleremo con lui, domani ti diremo tutto, Michele Santoro con un altro documentario, Robin Hood, sui bambini della Camorra, quindi ci risentiremo domani. Ci risentiremo domani sicuramente, Marta, poi ti sentiremo ovviamente anche nelle altre edizioni dell'informazione, gli altri appuntamenti con l'informazione, in particolare in GR24 nell'arco della giornata, e poi domani appunto parleremo di questo documentario di Michele Santoro. Ora però parliamo di sport. Scattano oggi a Rio de Janeiro i giochi paralimpici, le Olimpiadi degli atleti diversamente abili. Fino al 18 settembre, data di chiusura, vi presenteremo alcuni dei protagonisti della spedizione azzurra e tutti hanno delle storie straordinarie da raccontare. Iniziamo dalla nostra portabandiera. La chiama la variabile X, Martina Caeroni. Aveva appena 18 anni e stava tornando da una festa quella notte. La variabile X, la svolta nella mia vita, è avvenuta la notte tra l'1 e il 2 novembre del 2007. Quando stavo tornando da una festa in motorino e sono stata investita da una macchina che mi ha schiacciato la gamba sinistra e a cui ne è seguita l'amputazione a livello del ginocchio sinistro, quindi io non ho più l'articolazione e da quel momento è iniziata una nuova parte della mia vita. Bergamasca, coraggio e testa dura, Martina accetta la sfida col destino e col suo nuovo corpo. Studentessa universitaria, amante dello sport, dopo l'amputazione si innamora dell'atletica e i risultati non mancano. Alle Paralimpiadi di Londra 2012 è oro sui 100 metri nella sua categoria, ai mondiali è argento nel salto in lungo. Sarà lei a portare il tricolore nella cerimonia d'apertura a Rio de Janeiro, con nel cuore il sogno di sventolarlo poi anche dal gradino più alto del podio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E appuntamento a domani, sempre in effetto giorno, per un altro dei racconti del nostro Dario Ricci degli atleti paralimpici italiani. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia. Lo inizieremo dalla provincia di Venezia, dove abbiamo trovato una storia che abbiamo trovato interessante, paradossale e se vogliamo tipicamente italiana. È la storia di una coppia di due genitori ai quali è stata tolta la figlia per un errore giudiziario per 5 mesi, la figlia è stata messa in comunità, ebbene adesso, nonostante l'errore giudiziario sia riconosciuto, sono costretti a pagare le spese della permanenza in comunità di questa bambina. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione siamo tornati a parlare del caos nella giunta di Roma, nel Movimento 5 Stelle che investe anche il leader in pectore del Movimento Di Maio. Abbiamo parlato di un nuovo caso di arresti di indagati, di cosiddetti furbetti del cartellino, anche se il termine forse non è proprio corretto. Sono 29 indagati, andavano tra l'altro anche a lavorare come giardinieri o facevano shopping e visite mediche. Abbiamo parlato della notizia dell'ultima ora, molto importante, ossia che la Gran Bretagna ha annunciato la costruzione di un muro sull'autostrada di Calais contro l'eccessivo afflusso di migranti. Abbiamo parlato del terremoto, abbiamo parlato dei Paralimpiadi, abbiamo parlato della mostra di Venezia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo proprio in realtà dalla provincia di Venezia per una storia che va avanti da qualche tempo e che riguarda una coppia di genitori, hanno una neonata. Questa neonata a fine gennaio finisce nell'azienda ospedaliera di Padova con un taglio alla lingua. La madre spiega ai medici che la ferita, la piccola ce l'ha avuta per una caduta dall'ovetto, insomma dal seggiolino, per essere chiari. I medici che l'operano non ritengono compatibile la lesione con questa versione e riscontrano anche tracce di cocaina. Questo è il primo atto della vicenda, che poi porta la bambina ad essere spostata in comunità. Matteo Mion è l'avvocato di questa giovane coppia. Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è solo l'inizio della storia. E poi in realtà che cosa succede? Che la coppia chiede una perizia, no? Una controperizia. E poi? Ma non la chiede esattamente la coppia. Diciamo che la bambina, io uso termini forti ma sono realistici, viene realmente sequestrata presso bambina, poi la neonata, viene sequestrata presso l'azienda ospedaliera di Padova, perché la ferita sarebbe guarita più o meno in una settimana, viene trattenuta e sottoposta indebitamente ad esame per una quarantina, cinquantina di giorni. Dopo essere stata trasferita con i genitori in un reparto specialistico, diciamo, per presunti maltrattamenti, perché poi sono molto presunti e poco reali, di queste case del bimbo maltrattato, che è un centro regionale del Veneto, che è a Padova. Sì. Qui vengono, diciamo, quelle che poi si sono rivelate illazioni, vengono messe nero su bianco, e la bambina vengono trasmesse al tribunale dei minorenni, e la bambina e i genitori viene sottratta alla potestà genitoriale. Nel frattempo noi sollecitiamo, i genitori si rivolgono, sconvolti dalla vicenda, si rivolgono a noi, il padre in particolare, perché anche la mamma era presso l'ospedale, e noi iniziamo a sollecitare, nel bene o nel male, un intervento della Procura della Repubblica, perché se fosse vero che la mamma aveva procurato quel taglio alla bimba e a una bimba di un mese avesse, diciamo, fatto consumare della cocaina, o comunque gliel'avesse trasmessa lei per via sanguigna, era comunque un caso di competenza della Procura della Repubblica. Un caso penale, no? È la stessa Procura, quindi, che chiede di fare un'altra perizia. Come funziona? Una perizia. No, in precedenza non vengono fatte perizie. Come dire, ci si basa su quello che hanno visto i medici del pronto soccorso, capisco bene? Sì. Benissimo, ok, perfetto. Però vengono fatti una serie di esami presso l'ospedale, sì, facendo credere ai genitori che siano esami fatti per la tutela della salute della bambina. Invece, diciamo che questa casa del bimbo maltrattato è una sorta di procura ospedaliera dove vengono fatti esami per accertare se ci sono altre lesioni. Vabbè, ma, come dire, no, non è nemmeno scorretto che questo avvenga, diciamo, a tutela del bambino. È scorretto perché ci vuole un provvedimento dell'autorità giudiziaria, sì, per farlo, se sì. No. Se io porto mia figlia, le assicuro che è una figlia, da quel giorno le guardo i suoi ematomi in modo diverso, io devo andare in ospedale a giustificarmi di come quell'ematoma è avvenuto, a prescindere, con una sorta di presunzione di colpevolezza nei miei confronti. Capisco, no, è un ragionamento che capisco. Comunque, scatta questa nuova perizia e succede in sostanza che... La perizia ci dà completamente ragione. La perizia disposta dalla Procura della Repubblica, nonché tutti gli accertamenti del procuratore in Cardona, persona molto corretta e molto scrupolosa, sì, quindi l'interrogatorio dei genitori, di tutte le persone interessate, scaturiscono poi nulla di fatto, nel senso che insieme alla procura del dottore... Mi scusi, da questa perizia emerge che le tracce di cocaina si sarebbero ritrovate solamente nei capelli e potrebbero essere state, come dire, provenire dall'ospedale. Sì, anche perché la bimba a casa è stata una settimana, il resto del tempo l'ha fatta in ospedale, 40-50 giorni, quindi anche con un criterio probabilistico è molto più probabile che fosse in ospedale. A questo punto quanto resta sottratta ai genitori questa bimba? Beh, è rimasta circa un mese e mezzo. Adesso la cosa interessante, Mion, è che ai genitori è arrivato il conto di questa permanenza in comunità. Sì, mentre noi, diciamo, attendevamo una lettera, chiamiamola di scuse, ma adesso lo dico per sorridere, perché comunque noi faremo un'azione per danni contro l'ospedale, perché ovviamente una coppia giovane a cui viene sottratta una figlia in questo modo, senza, ripeto, l'avallo di una perizia, senza alcun riscontro, senza alcun contraddittorio, perché è molto importante quell'aspetto, mi rendo conto che possa essere un tecnicismo, però veramente l'aspetto inquietante della vicenda sta lì. E io in quel periodo, siccome poi la storia ha avuto evidenza sulle cronache locali, sono stato sommerso di chiamate i genitori in situazioni simili che toccano personalmente, umanamente certe corde. Certo, ovvio. Quindi è un passaggio importante che non ci venga tolto un figlio senza un avallo dell'autorità giudiziaria, perché sennò siamo alla barbarie, a prescindere poi che chi lo fa abbia ragione o torto, no? Certo. E quindi viene mandato in questa comunità di recupero di non so cosa, sulla base poi di quello che si rivela un errore inquietante. Sì. E oggi, dopo diciamo tutto il danno, c'è la beffa che arriva il conto della comunità da pagare. Un po' come se i carcerati dovessero poi pagarsi, no, il soggiorno. Certo. E questo lo inserirete nella richiesta danni, vero avvocato? Mi sembra. Sicuramente più diciamo aggravano questa situazione e più anche il danno, perché ovviamente lei si immagini la situazione dei genitori, e lo dico da padre, anche quella di un padre che a un certo punto crede alla moglie, cerca dei riscontri anche con occhio, per quanto coinvolto, però il più possibile oggettivo, e non si dà pace, certamente. E tra l'altro, mi perdoni che chiudo, il padre quel giorno era a lavoro, quindi se il provvedimento poteva avere un senso in base presuntiva rispetto alla mamma, sempre da padre dico, ma il padre che stava a lavoro non poteva essere allora allontanata la mamma e affidata a lui la bimba? Certo. Il papà povero stava a lavoro, che deve fare alla fine? Certo. La moglie fino a prova contraria, e quindi c'è stata una serie di errori complessivi, diciamo, per i quali appunto chiederete i danni. Grazie Matteo Mion, avvocato, per essere stato con noi. Giuseppina Perla è assessore, e qua è il nostro prossimo punto sulla mappa, il nostro prossimo passaggio del Giro per l'Italia. Giuseppina Perla è assessore ai servizi socioculturali e per la comunicazione istituzionale del comune di Norcia, provincia di Perugia. Buongiorno. Assessore, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, stiamo, come i nostri ascoltatori sanno, accendendo i riflettori, facendo una sorta di ricognizione nei comuni colpiti dal terremoto, quelli che hanno subito danni ma non hanno avuto vittime, perché per far sì appunto che i riflettori restino puntati anche su questi comuni, come il vostro appunto, che è stato uno dei comuni più colpiti, cioè ad Arquata del Tronto, ad Accumoli e ad Amatrice ci sono state le vittime, Norcia ha avuto molti danni, come abbiamo già raccontato, anche attutiti dal fatto che aveva lavorato perché le sue strutture fossero il più possibile antisismiche. Allora, assessore, vorrei un quadro da lei della situazione. Certamente, certamente. Noi siamo proprio questa mattina, la prima e la seconda commissione consigliare della Regione dell'Umbria si è riunita qui al centro operativo comunale, quindi abbiamo fatto insieme agli altri sindaci dei comuni colpiti il punto della situazione, di quello che è stato fatto finora e di quello che si dovrà fare d'ora in poi. Siamo comunque in fase ancora di emergenza, perché purtroppo continuano a verificarsi delle scosse telluriche questa notte superiori al 3.5 della scala Richter, e quindi siamo ancora in una fase di emergenza, però è iniziata l'opera di verifica degli edifici. Prima sono stati verificati quelli strategici, quindi le scuole, gli ospedali e quant'altro, e ora sono iniziate quelle dei privati, che cercheremo di... Quanta gente c'è fuori dalle case al momento, assessore? 1200-1300 persone. 1200-1300 persone. Sì. E poi molte altre che comunque, per la paura, anche se magari hanno le case che non hanno subito lesioni, comunque non riescono a dormire ancora dentro casa. Quindi la situazione è ancora una situazione difficile. Tra l'altro ha cominciato anche a piovere, quindi il nostro obiettivo è quello di tirare fuori dalle tende prima possibile le persone e di dare comunque una alternativa. Qui a Norcia ci sono tre centri di accoglienza al palazzetto del tennis, nelle due palestre qui al COC, poi c'è una tendopoli a San Pellegrino, un'altra a Castelluccio, ci sono le tende degli agricoltori che hanno comunque il bestiame. Allora, tra l'altro, ho visto che a Castelluccio, assessore, ci sono stati Castelluccio di Norcia, appunto, ci sono stati 1400 metri di altezza con il vento che ha scoperchiato un po' di tende, no? Un po' di strutture. Beh, non le tende, diciamo, quelle dove sono posizionati gli abitanti, ma quelle che servivano per tipo mensa, e quindi i gazebo sono stati ovviamente distrutti dal vento. Quindi che è comunque un problema, evidentemente. Senta, assessore, mi aiuti a capire una cosa. Ovviamente adesso partiranno le verifiche vere e proprie, però come dire, in questo paio di settimane un minimo di idea, voi ve la sarete fatta. Secondo lei quante persone saranno costrette a rimanere fuori casa e quante potranno rientrare? Guardi, dalle prime stime viene fuori che un 35-40% delle case risultano comunque inagibili, quindi immagino la metà di quelle che oggi accogliamo. Speriamo di meno, insomma, la nostra speranza è questa. Comunque riusciremo ad iniziare ad avviare comunque l'anno scolastico, e questo è importantissimo, perché comunque uno dei rischi più gravi che noi corriamo è il processo di deantropizzazione, perché poi eravamo arrivati ad avere comunque un buonissimo sviluppo turistico, economico in questi ultimi due anni, per cui adesso dobbiamo lavorare per cercare di mantenere comunque la gente, di dare sicurezza. Per mantenere la comunità unita. Sì, mantenere la comunità unita. Quindi l'apertura comunque, l'avvio dell'anno scolastico è sicuramente una cosa importantissima che noi siamo riusciti comunque a fare. Avete già una prima stima dei danni complessivi, assessore? A livello economico no, non ce l'abbiamo, però i danni sono ingenti. Consideri che comunque già il patrimonio culturale e ecclesiastico è danneggiato, tutte le chiese sono comunque inagibili, quindi già quello è comunque un danno piuttosto importante. Per quanto riguarda le private abitazioni, ripeto, stanno procedendo con i sopralluoghi, speriamo che sia meno possibile il danno. Consideri che noi abbiamo comunque le case che sono crollate, come diceva il Premier ieri sera, sono quelle che non erano state sottoposte a interventi antisismici veri e propri dopo il terremoto del 79, ma molte delle nostre case sono antisismiche, ma essere antisismico non vuol dire che non si rompono. No, questo l'abbiamo spiegato spesso anche nelle ore del terremoto, cioè l'importante essere antisismica vuol dire, soprattutto quando è un centro storico come quello di Norcia, sono case antiche, vuol dire che antisismica non è che non si danneggia, vuol dire che non crolla sulla testa delle persone e tendenzialmente, come è avvenuto a Norcia, non uccide, no? Uccide, ma anche le villette, quelle isolate, comunque antisismiche, comunque nuove, fatte con tutti i criteri, comunque si sono spaccate e nelle tamponature richiederanno comunque dei lavori di ripristino, per cui i danni proprio agli edifici sono ingenti. E speriamo insomma che la ripercussione a livello economico, tra virgolette, insomma a livello sociale, antropico, non sia così forte. Un'ultima domanda in termini di tempi, assessore. Che tempi prevede per una ricognizione completa? Per avere un quadro sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista appunto delle persone che rimarranno fuori dalle case. Guardi, le verifiche dureranno ancora per un po' di giorni, ma si prevede che nel giro di 10-15 giorni saranno comunque terminate, quindi a quel punto si potrà fare un punto della situazione. Io la ringrazio molto e le auguro ovviamente un buon lavoro a Giuseppina Perla, assessore ai servizi socio-culturali e alla comunicazione istituzionale del comune di Norcia, provincia di Perugia, come abbiamo detto, uno dei più colpiti dal terremoto. Una pausa e poi ci risentiamo per la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il caso dei 5 Stelle, il caos della giunta di Roma che investe il leader in pectore Di Maio, avrebbe saputo dell'indagine sull'assessora Muraro fin da agosto, lui si difende, è colpa dei partiti, smonteremo queste accuse. Dovrebbe partire a breve la costruzione di un muro a Calais in Francia, lo fa sapere il ministro dell'interno britannico, sarà pagato dalla Gran Bretagna. Timbravano il cartellino e poi andavano a lavorare come giardinieri o facevano shopping, visite mediche, 29 indagati nell'ex provincia di Siracusa. Dopo il sisma riapre la tratta della Salaria, chiusa stanotte per la caduta Massi, questa notte nuova scossa di magnitudo 3.4, 6.200 le repliche dal 24 agosto. Alla borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Prima di andare alle altre notizie, ce ne sono alcune che arrivano da Parigi, dove questa mattina è stata trovata un'auto, ora le agenzie di stampa dicono con esplosivi, in realtà era un'auto vicino a Notre Dame. contenente 7 bombole di gas. Non c'era né una miccia, né un innesco, né un detonatore, però insomma la cosa sta un po' dominando le home page dei quotidiani online. 7 bombole di gas a bordo, è stata fermata una coppia, si trova in stato di fermo a Parigi per la vicenda di quest'auto abbandonata con 7 bombole di gas a bordo. Secondo fonti della polizia citate alle TV locali, si tratta di un uomo di 34 anni e di una donna di 29, entrambi pregiudicati. Nell'auto, appunto, come si diceva, è rimasta parcheggiata 2 ore. C'era una bombola vuota nell'abitacolo, quindi chiaramente visibile. La macchina aveva le luci accese, altre 6 erano piene nel portabagagli. L'unico dettaglio è che questa auto, appunto, era senza targa, ma non c'era nessuna miccia. A proposito di auto, è stato arrestato l'autista dell'Audi gialla. Finisce la corsa dell'autista dell'Audi gialla. I carabinieri del comando provinciale di Venezia hanno catturato il conducente dell'auto che nel gennaio scorso era finita al centro delle cronache per essere il mezzo usato da una banda di ladri che agiva tra Veneto e Friuli. L'uomo dietro al volante dell'auto sarebbe Rama Vasil, cittadino albanese ricercato dal 2011 per reati legati al patrimonio. L'uomo è stato bloccato al confine tra Albania e Grecia in un'operazione congiunta con la polizia ellenica. Al momento Vasile è in stato di fermo in un carcere greco, in attesa delle procedure di estradizione. I carabinieri sono giunti all'identità di Vasile grazie alle riprese delle telecamere di una stazione di servizio e un'impronta digitale rinvenuta all'interno dell'Audi gialla che la banda aveva dato alle fiamme la notte del 25 gennaio scorso, prima di scomparire. Andrea Siravo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato diffuso, e qua andiamo a chiudere, un rapporto dell'UNICEF oggi che fa il punto sui migranti, ma soprattutto fa il punto sui bambini. Quanti ce ne sono tra i migranti e tra i profughi? Sentiamo. Stiamo parlando di 50 milioni di bambini sradicati. Di questi, 28 milioni sono costretti a sfuggire dalle proprie abitazioni a causa della guerra, quindi è di un fenomeno mondiale. Per un bambino essere sradicato dalla sua realtà vuol dire rischiare appunto intanto la vita, ma poi rischiare di non avere un futuro, di avere comunque un futuro segnato da questo migrare. Lei diceva poco fa il problema è mondiale. Comunque nel 2015 circa il 45% di tutti i bambini rifugiati sotto la protezione dell'UNHCR proveniva, scrivete, da Siria e Afghanistan. Sì, e questo ci fa riflettere molto, perché se i fulcri sono posti nel mondo dove ci sono le guerre, la prima soluzione per interrompere questi flussi migratori è la pace. È la Turchia invece che sta accogliendo il più alto numero di profughi. Sì, che c'è un numero tra i 3 milioni e 3 milioni e mezzo di profughi, rifugiati e migranti. E poi l'altro esempio che ci salta agli occhi è quello del Libano, dove ormai una persona su 5 è un rifugiato o un migrante. Mentre in Gran Bretagna si trova un rifugiato ogni 530 abitanti. Come negli Stati Uniti, invece, se passiamo agli Stati Uniti, il rapporto di uno ogni 1200. E la voce era quella di Paolo Rozeda, direttore generale di UNICEF Italia, intervistato da Laura Bettini. Noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi c'è Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.